l'azzurro dei tuoi occhi io vedrò. Guardami, abbracciami, mi fa bene se rimani ancora un po'. Angeli, angeli, quanta voglia di volare in mezzo al blu. Cantano gli angeli, è la musica degli angeli, sei tu. Volano le stagioni, cambiano le canzoni, mentre noi siamo qua stretti nell'immensità, come due angeli di città. Not sure.